Soundcheck, il suono della musica, di Gigi Telesforo. Ci siamo, Bo Marzi? Posso? Sì, possiamo andare. Posso andare? Cioè, siamo in onda? Siamo in onda. Eccoci qui, pronti dal Groovemaster Studio per il soundcheck di Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gigi Telesforo e ancora una volta buonasera al nostro super, ovvero l'ingegnere del suono Riccardo Bo Marzi. Buonasera. Che abilmente risolve problemi tecnici e anche qualcos'altro qui all'interno della nostra struttura sonora, nel senso che prepara caffè, spolvera, no? Molto spesso fai anche questo e cucini molto bene. Complimenti Bo Marzi, perché riesci sempre a trattarci nel migliore dei modi. Vado a salutare e a ringraziare sempre per il lavoro, per la grande attività che svolge quotidianamente per il soundcheck di Radio 24, il nostro giornalista, comunicatore multimediale della nuova generazione, il professor Francesco Tromba. Da professore sono diventato. Ti è piaciuto? Ti sei sentito subito importante? Beh sì, quello sì, però non preparatevi, sono ragazzi, perché oggi sono nervosissimo. Perché? Sono nervosissimo perché sto facendo delle riflessioni importanti in questi giorni che riguardano proprio la mia attività di musicista e di osservatore dell'ambiente musicale. E su che cosa stavi riflettendo? Sto riflettendo sulle continue lamentele da parte dei musicisti. Beh, ce ne accorgiamo tutti i giorni se frequentiamo Facebook e i vari social network. Te ne sarei accorto anche tu, no? Beh sì, spesso diciamo sono abbastanza polemici. I musicisti sono polemici, ma si lamentano, ma giustamente. No, è vero, è un momento abbastanza difficile. Però io credo sempre che prima di lamentarsi bisogna anche in coscienza fare un'autocritica. Eh sì, quello è il primo passo. È il primo passo che bisogna fare. Perché, no? Perché bisogna prendere coscienza di quelli che sono i problemi. E dobbiamo essere anche concreti. Allora, io direi oggi dedicarci proprio allo sfogo libero al soundcheck di Radio 24 e naturalmente gli amici che frequentano l'ambiente musicale da appassionati ma anche da musicisti possono dire la loro utilizzando i nostri social network, perché sono sempre attivi quelli, sì, no? Sì, sempre attivi sia Facebook che Twitter che Instagram. Hai notato rispetto all'anno scorso un calo o un incremento? No, è un incremento rispetto all'anno scorso, sì. Quindi ci contattano e ci seguono attraverso i nostri social network. Sì, poi da quando abbiamo inserito anche i live ci sono molti più commenti, spesso positivi, e anche diciamo tante band che si promuovono, che cercano appunto di chiederci di venire a suonare dal vivo qui da noi. Ecco, noi ogni tanto però un fermo biologico lo dobbiamo fare per far respirare lo studio e per dare la possibilità anche al nostro ingegnere del suono di dedicarsi di a altro, perché pezzo, quest'uomo anche ha una vita, no? Giusto, Bo Marzi? Esatto. Io praticamente vivo recluso ormai da settimane all'interno del Groovemaster Studio, dove fai la tua attività, però insomma da ingegnere del suono ti dedichi anche altro e mi sembra una cosa giusta. Tra l'altro so che sei impegnato presto proprio nelle alte sfere, sto parlando, mi sa che devi andare in Vaticano per qualche motivo. Dove devi andare? Esattamente, da dopodomani inizio la produzione di un concerto che ritorna all'Aula Nervi del Vaticano. Quindi il concertone che si chiama Natale in Vaticano, su una emittente, diciamo. Quindi significa che anche gli ingegneri del suono che partecipano a questa operazione, mi pare che c'è il grande maestro Tony Soddu, no? Sì, saremo coordinati da lui, diciamo, il grande stage mail. Mi sa che anche voi avrete l'indulgenza plenaria. Poi andiamo lì solo per vero, quello. I musicisti vanno per quello, perché mi sa che non sono pagati per quella performance, o no? Sai che non lo so, non mi occupo non so se il Vaticano spende 2 lire per la musica. No, penso che comunque magari un gettone di presenza. Mi piacerebbe sapere, perché è di quello che dobbiamo parlare oggi. Oggi mi voglio sfogare, va perché bene? Alla fine poi i biglietti, cioè, vengono utilizzati ovviamente i fondi per beneficenza. Certo, beneficenza a chi? Vedi come sono polemico oggi? Va bene, vediamo. Allora, facciamo una cosa. Intanto cerchiamo di rilassarci e andiamo alla musica di Eric Robertson. Ma quanto scrive e quanto produce quest'uomo? diciamo. Poi ha fatto questa operazione musicale, ha diviso questo disco in tre pezzi. Il primo si intitolava Earth, ha fatto tre EP, Earth, Wind, e il terzo come si poteva chiamare? Fire, ecco, ha fatto bene. Everything Eric Robertson al soundcheck. Il sound di Eric Robertson, sempre attivo, ormai da 10 anni a questa parte si sta facendo notare questo ragazzo, compositore, eccellente cantante, brano intitolato Everything, ultima tranche di produzione, mi sa, o è la seconda di questo trittico Earth, Wind and Fire? È la terza, il terzo EP questo. Il terzo EP, quindi ha chiuso, finalmente si potrebbe placare quest'uomo, che fa di tutto, anche il direttore artistico di vari contesti musicali, guida anche quella bellissima crociera che organizza il sito di riferimento per gli appassionati di soul music, soultracks.com, una crociera fantastica, non so se si fa nel periodo di Natale o in primavera, non ricordo bene. Però mi mandano l'invito ogni anno. Nel periodo di Natale c'è anche un sicuramente. C'è una crociera che parte da Miami, tocca, fa il giro dei Caraibi per portare gli appassionati di musica a seguire alcuni concerti bellissimi, perché c'è un bellissimo palco, anzi più di un palco. Io ho notato una cosa, per esempio, ecco, questo è anche, devo aprire la parentesi polemica. Nelle barche, nei barconi, no barconi, come si chiama? Le navi, i panfili, che, sì. le navi da crociera, nelle navi da crociera ci sono dei teatri meravigliosi dove si fanno gli spettacoli, i concerti da intrattenimento tipico da crociera. E invece nel nostro paese, quando si costruiscono i teatri nuovi e moderni adesso, suonano malissimo e a volte vengono costruiti anche da architetti di chiara fama. Evidentemente non c'è attenzione. Ce n'è uno che è specializzato, bravissimo, fa delle opere bellissime, ma è specializzato per far suonare male tutto, non si sa perché. Io lo devo contattare. Non, guarda, si fanno nomi, si dice il peccato. Tanto i musicisti hanno capito di chi sto parlando, perché loro poi ne fanno le spese. Perché poi quando un posto suona male, ovviamente, diciamo, tutto si riflette sul pubblico. Come e si fa? Si fanno posti di musica, Bob Marzi le fa l'ingegnere del suono. Qual è l'elemento chiave che non deve essere utilizzato in una sala da musica? Il vetro e il cristallo. Ma ti pare che si fanno auditorium che con le pareti di cristallo, o studi di registrazione con le pareti di cristallo, studi da ripresa audio con le pareti di cristallo? Sanno anche i muri, lo sanno anche i bambini. Mannaggia, vabbè, ma oggi sono così, sono tremendo, te lo dico, mi dovete dare un calmante, ti devi sfogare, delle gocce ci vogliono. Va bene, allora facciamo una cosa. Torniamo a Eric Robertson. Torniamo a Eric Robertson. Chiudiamo questo capitolo 3 con questo terzo EP intitolato Fire. Questo potrebbe essere Fire. Il brano si intitola Leave the Door Open, lascia la porta aperta, perché fra un po' arriverà anche Babbo Natale. Eccolo qui, Eric Robertson al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gegé Telesforo. Eh sì, questa nuova produzione di Emily Sandé è abbastanza convincente, non tutto l'album per essere precisi, però ci sono 3-4 brani veramente forti, si sente il sound di questa formidabile artista. Qui la partecipazione di Dave East. Siete in contatto con il soundcheck di Radio 24 dal Groove Master Studio con l'ingegnere del suono Riccardo Bomarzi, che cerca di tenere a bada tutte le macchine, la tecnologia presente, e Francesco Tromba. Dicevamo, abbiamo detto all'inizio dell'appuntamento di oggi, che c'è una vena polemica in noi, vorrei essere preciso, nel sottoscritto, perché ho letto di tutto in questi giorni. I musicisti sono veramente alterati. Perché c'è un momento molto difficile dal punto di vista, appunto, del precariato, soprattutto del precariato, ma questo, anche del lavoro, quindi non solo i musicisti, i liberi professionisti, perché di solito da sempre si dice: ma che lavoro è quello del musicista? Ce lo dicono i parenti, gli zii, i nonni, gli amici degli amici. Però il nostro alla fine è un lavoro che non ha una stabilità, e quindi quando si fa il libero professionista lavorando nella musica si accetta questo tipo di condizione, ma oggi hanno problemi anche tutti quei musicisti che per anni hanno insegnato nei conservatori o nelle scuole di musica, ma parliamo proprio dei conservatori, hanno lavorato come precari, il che significa che come precari hanno lavorato, hanno insegnato, hanno formato dei musicisti, che alcuni dei quali oggi rappresentano anche l'eccellenza della musica italiana in Italia e nel mondo, e li hanno formati a loro spese, perché praticamente anche per raggiungere i vari conservatori sostenevano le spese di viaggio che non venivano mai rimborsate. E oggi che cosa succede? Che è venuta fuori una legge, no, che praticamente tiene questi insegnanti che per anni hanno buttato il sangue, li tiene fuori dai giochi. Praticamente tutto quello che hanno fatto non è servito a nulla per la loro carriera. Eh sì, nonostante alcuni insegnino anche da 20 anni, cioè 20 anni di precariato sono una vita praticamente. Sì, tra l'altro ho letto vari post di vari amici e di vari colleghi, si sono veramente alterati, mi dispiace tantissimo, perché poi quando decidi di fare l'insegnante sai che devi donare tutto te stesso ai ragazzi e a una struttura, in qualche modo. A volte ti dimentichi anche di essere un musicista e sei costretto per insegnare a lasciar perdere dei concerti o anche altre attività legate alla musica, possono essere la produzione di dischi, gli arrangiamenti, eccetera. In questo modo tu accetti, certo, uno dice ma c'ho il posto fisso, ma in questo modo così non è assolutamente fisso. È stata una fregatura terribile per questi ragazzi, per tutti. Bene, comunque. Oggi racconteremo di queste cose perché tocca parlare di noi. Il nostro è un programma di musica che parla di musica, non di pop star. Sì, e oltre a questo parleremo anche della musica dal vivo, perché sono usciti un po' di dati sui concerti in tutta Europa in realtà, durante la Milano Music Week sono usciti questi dati e ne parleremo dopo. Va bene, che vogliamo fare? Tornare alla musica? Sì. Possiamo andare, Bo Marzi. Facciamo una cosa, allora chiudiamo anche il capitolo Emily Sandé con un altro brano che a me è piaciuto tantissimo, questo è veramente bello, il brano si intitola Kingdom Coming al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck di Gegè Telesforo. Il nuovo talento del contemporary R&B statunitense è Daniel Caesar dall'album Freudian, brano intitolato New Roses, che si è accaparrato proprio con questa pubblicazione alcune nomination ai prossimi Grammy Awards, e oggi ce l'ho anche con l'Academy dei Grammy Awards, perché quest'anno non mi sento rappresentato dalle nominations che sono state fatte. Beh, in effetti quest'anno diciamo è stata un po' mi sembra un'edizione in calare, diciamo, rispetto è vero? All'anno scorso. Mi sembra più una cosa da ragazzini. Sì, però questo disco in realtà lo meritava. L'album lo merita e lo merita lui, l'album è molto ben realizzato e fatto molto bene, però in genere nelle varie categorie non mi sembra che siano stati poi scelti. Insomma, io come soundcheck non mi sento rappresentato, perché nelle passate stagioni invece molta musica che noi avevamo presentato e avevamo anticipato poi alla fine ce la siamo ritrovata anche fra le nomination, e molti di questi hanno anche vinto i Grammy Awards. Quest'anno niente, poca roba. L'anno scorso c'erano magari 3-4 artisti, album che appunto potevano tranquillamente vincere, cioè uno di quei 3, di quei 4 poteva vincere e nessuno poteva dire niente, nessuno poteva fare nessuna polemica. Invece quest'anno devo dire la qualità è un pochettino più bassa, è calato, sì. Forse sta diventando un po' troppo commerciale il tutto, certamente, insomma è un'industria, sì, che deve essere sostenuta. C'è stata un po' meno attenzione diciamo a quelle produzioni che magari non hanno avuto tantissima pubblicità dal punto di vista mediatico, che però in realtà dal punto di vista qualitativo sono fenomenali. E invece l'anno scorso pensavamo che le carte in tavola in qualche modo si stessero stravolgendo, perché con la vittoria di Chance the Rapper con un album autoprodotto e distribuito solo via internet, insomma è stato un bel colpo per per la discografia ufficiale, soltanto che quell'album ha ottenuto una grandissima attenzione dal momento della pubblicazione e quindi in quel caso i signori dell'Academy sono stati attenti. Diciamo che si sono fatti due passi avanti e uno indietro con questa edizione. Bravo, questa è una bella cosa. Allora, non so se abbiamo il tempo di leggere qualcosa di questi amici musicisti, ma anche dei giornalisti importanti che non hanno ottenuto il contratto di lavoro dopo anni di attesa e anni di precariato. Qual è il motivo? Il motivo è che appunto diciamo queste assunzioni eventuali avrebbero gravato sul bilancio dello Stato, nel senso che essendo degli enti pubblici conservatori per 2 milioni di euro non sono nulla, però evidentemente da qualche parte dovevano arraffare questi soldi. Ovviamente la prima categoria che è stata scelta è quella dei musicisti, sì. La musica, no? Esatto. L'arte e la cultura, come sempre il nostro paese, quando invece dovrebbe capire che l'arte e la cultura nel nostro paese non solo dovrebbe essere sostenuta, ma potrebbe diventare una fonte di guadagno che potrebbe rimettere a posto le sorti del paese. Tra l'altro fregandosene anche di quelle che sono le normative europee nell'ambito dell'assunzione dei precari. Infatti andiamo sempre peggio noi in Italia con l'arte, la musica e la cultura. Ma vediamo che cosa dicono i nostri amici. Sì, ti leggo quello che ha scritto Stefano Zenni un po' di tempo fa. Ecco, Stefano Zenni è una voce autoritaria, noi lo salutiamo, lo abbracciamo, siamo con te Stefano. Se vuoi venire a sfogarti fallo pure, chiamaci e vieni a trovarci al Soundcheck Radio 24. Sì, ma io al tempo stesso non so, potrei anche leggere la replica fatta da un musicista ormai un didatta affermato come il bassista elettrico Maurizio Rolli, che tra l'altro forse per merito suo oggi nei conservatori c'è la cattedra di basso elettrico. Comunque vediamo che cosa dice Zenni. Salve a tutti, mi presento, sono Stefano Zenni e sono un precario, insegno nell'alta formazione dei conservatori dal 2000. Ho insegnato per 15 anni a contratto, senza tutele di alcun tipo. Una volta un consulente mi ha spiegato che, essendo un esterno, avevo gli stessi diritti dell'idraulico chiamato occasionalmente a riparare un guasto. Poi ho insegnato per 3 anni come supplente annuale, quindi precario statale, e ora mi avvio al 4º anno, in barba alle direttive europee sulle assunzioni dopo 3 anni di precariato. Quindi diciamo c'è questa direttiva europea che dopo 3 anni di contratti precari il 4º dovrebbe essere assunto. Invece l'Italia se n'è fregata di questa direttiva. In questi anni i corsi di jazz in cui ho insegnato a Pescara, Parma, Pesaro, Siena, Firenze e infine soprattutto a Bologna sono rimasti in piedi grazie al mio lavoro e di altre centinaia di precari come me. E grazie al nostro lavoro sono usciti dall'AFAM centinaia di musicisti che alimentano l'alta qualità culturale della musica in Italia e in Europa. Stanotte la maggioranza del governo, stanotte si riferiva a circa un paio di settimane fa, per una cifra ridicola che erano appunto i 2 milioni di euro che ricordavamo prima, è andata contro questa direttiva europea. A 55 anni, con 25 anni di esperienza alle spalle, di cui 18 per la scuola pubblica, che amo e difendo, il mio compito di docente rimane quello di formare al meglio gli allievi e aiutarli a formarsi uno spirito critico. Ecco, uno spirito critico. Quello che abbiamo noi oggi, sì, no, giusto. Critico. Allora stiamo per andare all'informazione di Radio 24, ci andiamo sempre con questo campione di contemporary R&B, Daniel Caesar, il brano si intitola Take Me Away e c'è la partecipazione della bravissima Sid. Ci sentiamo fra pochissimo dal Groovemaster Studio. Soundcheck, il suono della musica. Seconda parte del Soundcheck di Radio 24, qui dal Groovemaster Studio con Gegé Telesforo, il super, ovvero l'ingegnere del suono Riccardo Bomarzi, attivissimo, e il nostro Francesco Tromba. Stanno arrivando messaggi di amici musicisti precari. Sì, avvelenatissimi. Avvelenati, sì, sono stati tolti, praticamente sono venuti meno 2 milioni di euro che avrebbero potuto sostenere il lavoro e l'attività di tutti questi musicisti che per anni, chi 10, chi 15, ha dedicato la propria vita all'insegnamento nelle strutture pubbliche e nei conservatori. Va bene, questo è quello che succede nel nostro paese, si fa sempre un passo indietro, a volte due per quel che riguarda l'arte, la cultura e naturalmente la musica. E c'è anche crisi nel settore della musica che riguarda proprio l'attività concertistica. La crisi per i musicisti, perché di concerti se ne fanno sempre meno e sono pagati sempre peggio, con lunghi periodi di attesa per incassare i bonifici, no? Una volta era bellissimo, tromba, te lo dico io, si andava ai concerti, non salgo sul palco se non vengo pagato, e ti pagavano in contanti. Contanti sonanti messi in una busta di carta. Quando si facevano i concerti d'estate c'erano i comitati, no? I comitati del paese che mettevano proprio, facevano la colletta, no? Proprio con le 1.000 lire. Addirittura. Con le 1.000 lire tutto, tornavi a casa con una borsa come se avessi fatto uno spaccio internazionale, chissà di quale sostanza stupefacente, invece avevi soltanto fatto il tuo concertino. Oggi invece tutto viene bonificato, no? Tutto deve essere controllato, e naturalmente quando poi lavori con le aziende oppure lavori con le istituzioni, la pubblica amministrazione, il Bomarzi lo sa bene, vieni pagato con mesi dopo mesi di ritardo, perché bisogna fare la giunta comunale, bisogna riunirsi, ma ci abbiamo questo pagamento, e naturalmente siccome sono più importanti le buche in mezzo alla strada, no? Però intanto tu il concerto l'hai fatto. Tu l'hai fatto, hai sostenuto le spese per viaggiare, per dormire, tutto quello che hai fatto, e poi viene bonificato quando tu i tuoi soldi li hai già spesi e li devi ancora incassare. Ma vabbè, ma oggi siamo così, siamo polemici, ma vediamo perché siamo in crisi con la musica dal vivo. Allora, durante la Milano Music Week sono stati diffusi questi dati da Assomusica, che sono i dati sulla musica dal vivo in Italia, sono stati elaborati grazie all'indagine Top 20 Live Music Markets, quindi diciamo vengono proprio direttamente dallo sbigliettamento questi dati. Esatto. L'Italia si piazza al sesto posto tra i mercati della musica dal vivo a livello mondiale, quindi alla fine non siamo messi non così male. Sì, considerando che il paese è piccolo anche. Prima dell'Italia ci sono gli Stati Uniti, la Germania, l'Inghilterra, il Giappone e la Francia. Con un ricavo nel 2017 l'Italia pari a 721 milioni di dollari. C'è anche una previsione in realtà di crescita fino al di 2000... dollari o di euro? Di dollari, di perché è stata fatta in dollari per unificare diciamo un po' i mercati. Vedi, l'euro non conta nulla. rispetto al dollaro. È facile fare in dollari, evidentemente. La previsione, c'è anche una previsione in realtà di crescita, c'è un dato positivo fino al 2020 di circa 832 milioni, quindi 100 milioni più o meno, 110 milioni in più. Però a farla da padrone ovviamente è sempre la musica pop rock, che vale circa metà degli incassi, 347,9 milioni di euro. C'è un calo però appunto dal punto di vista dei biglietti, dello sbigliettamento, sia del prezzo dei biglietti, che è un calo dell'1,68%, cioè i biglietti della musica dal vivo in Italia sono calati di 1,68%, gli introiti invece sono diminuiti dell'1,35%, quindi un calo limitato, non eccessivo, diciamo. Quindi, insomma, la gente va a vedere i concerti. Sì, non siamo messi così male come pensiamo, in realtà. Naturalmente l'asticella viene portata in alto dai fan più giovani che seguono le rock star, le pop star, no? Sì, infatti negli ultimi anni diciamo c'è anche un po' una rinascita del cantautorato italiano, nel senso che ci sono stati diversi sold out, anche in location molto grandi. Anche il rap italiano va molto bene. Sì, sì. Sono molto sono in calo come affluenza di pubblico proprio i concerti che riguardano il jazz e la musica classica. Diciamo nel senso che forse il target si è alzato molto. Sì, forse non si è rinnovato il pubblico, il pubblico, però ci sono molti giovani musicisti, quelli che poi frequentano i conservatori e le scuole di musica, e io ce l'ho con questi ragazzi e poi vi spiego anche perché. Ma andiamo alla musica. Fra qualche settimana vorrei proporre una Afrobeat, un soundcheck tutto afrobeat. Bello. Ti piace l'idea? E allora direi di fare un piccolo assaggio con questo nuovo progetto che vede come producer la giovanissima soul singer Joss Stone, biondissima, bianca, bellissima, grande appassionata di afrobeat. Il progetto proprio si intitola Mama Earth e questo è proprio il brano che dà il titolo al progetto di Joss Stone. Soundcheck, il suono della musica, di Gegé Telesforo. Hey there, Paolo. Sì, potremmo dirlo, come mi ha suggerito Francesco Tromba, direttamente da una cucina in uno studio di registrazione. Miles Sanko, ex chef o ex cuoco, che faceva? Beh, sì, faceva il cuoco prima di diventare musicista professionista. Vero? Musicista professionista che evidentemente in cucina ascoltava tutti i classici degli anni 70, perché il suo suono e la sua musica ci riporta indietro nel tempo. Alla fine il soul nutre l'anima, quindi alla fine il cuoco può essere... Quindi non solo l'anima in questo caso. Sì. Miles Sanko con Forget Me Not qui al Soundcheck di Radio 24. Allora, abbiamo anche analizzato un po' i dati che riguardano l'affluenza del pubblico ai concerti proprio in base allo sbigliettamento. Naturalmente organizzare un concerto è una cosa molto difficile ed è sempre più complessa l'organizzazione di un festival. Sì, dipende per da veramente un'infinità di variabili. Anche molti festival hanno chiuso i battenti nel nostro paese perché le istituzioni non hanno più aperto le casse nei loro confronti. I soldi sono diminuiti e in Italia, al contrario di altri paesi, non ci sono aziende private che investono sulla musica, perché fuori ci sono molti sponsor, anche perché fuori ci sono molte multinazionali che investono sui grandi festival. In Italia sono pochissimi quelli che hanno questo tipo di partecipazione. Secondo me in Italia non c'è l'abitudine, nel senso che noi abbiamo sempre avuto i finanziamenti pubblici per questi grandi festival e quindi gli stessi direttori artistici, diciamo tutta l'organizzazione di un festival, non era abituato a trovare delle sponsorizzazioni, mentre all'estero è sempre stata una cosa quasi normale e naturale. Cioè se pensiamo a dei festival storici come può essere ad esempio il Rocella Jazz, che per 30 anni ha portato l'avanguardia del jazz, diciamo, lasciamo perdere gli ultimi anni, appunto sono pieni di polemiche sui pagamenti, però non ha mai avuto uno sponsor vero e proprio. Erano sempre solo finanziamenti pubblici. E comunque i festival vivevano proprio perché c'era l'intervento istituzionale, no? Sì, bisogna no? Dei comuni, della provincia, avevano un bacino importante che permetteva l'organizzazione. Però la cosa, il dato importante è che questi festival non riescono a sopravvivere soltanto con lo sbigliettamento. No, perché? Quindi per quanto ci sia l'incasso, no? Perché i dati sono quelli che ci hai letto tu, molti festival hanno chiuso i battenti perché con l'incasso soltanto dello sbigliettamento non si riesce a tenere su tutta la baracca, che ha un costo notevole, insomma, l'organizzazione di un festival. Beh, perché se porti nomi grossi ovviamente budget è alto. Certo. Perché noi lo dobbiamo dire, come si organizza un festival? Uno ha un budget di riferimento che lo deve gestire e per coprire, che ne so, un festival di 3-4 giorni ci metti dei nomi forti che attirano il pubblico e poi il festival però viene fatto anche da quei nomi minori da un punto di vista di fama e di appeal, ma che fanno poi il suono del festival. Però poi ci sono in realtà tanti artisti, magari giovani al primo disco, che vengono con un budget limitato, però tu devi essere lì pronto a cercarli, nel senso devi essere pronto a cogliere gli spunti che ti offrono, perché magari riesci a prendere un artista. Quella è al l'abilità primo disco. Del direttore artistico, no? Che deve essere attento, conoscere il passato, vivere il presente e essere proiettato nel futuro, che è il concept classico, insomma, della nostra mentalità. La cosa che dispiace, ma lo dico dopo magari, no? Che dici, Bomarzi? Lo dico dopo perché ci scappa la musica e la musica è buona e qui vediamo c'è un'accoppiata ai vertici proprio. Beh sì, ormai due campioni. Lui è una leggenda di nome e di fatto, John Legend con Chance the Rapper, il brano è fantastico, Penthouse Floor al Soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. Finalmente ha pubblicato il suo album, lo stavamo aspettando, album intitolato Starting Now, cioè sto iniziando proprio adesso, e questa è la sua prima pubblicazione come solista, polistrumentista ma soprattutto un batterista geniale. E questa è la cosa buffa, che un batterista geniale, fortissimo e richiestissimo come lui Scato, in questo album fa di tutto tranne che il batterista. Sì. Nel senso che di batteria e di ritmo se ne sente molto poco, ma è un classico dei batteristi, no? Magari si è stancato. Ma con gli altri si sfogano, quando poi fanno le cose per sé cercano di essere, non dico intellettuali, ma mettere più in mostra il lato compositivo e quello da musicista e non quello da strumentista e da batterista. Beh, anche perché proprio. Luis Cato se lo può permettere, suona 5 strumenti benissimo. Luis Cato torna al Soundcheck, album appena pubblicato Starting Now, ci sono riusciti a metterlo sul mercato gli amici della Rope Dope, il brano intitolato In My Reach, ma fra pochissimo ascolteremo anche altre cose che provengono da questa nuova pubblicazione. Allora, dicevamo, io ce l'ho con i giovani musicisti. Perché? Ce l'ho con i giovani musicisti, quelli che proprio studiano nei conservatori, che frequentano le scuole di musica, e sono tantissimi, perché non li vedi mai ai concerti. Si vanno a fare i concerti in giro e vedi sempre lo stesso pubblico, un pubblico che sta invecchiando insieme a noi. E secondo te per quale motivo, cioè, non vengono ai concerti? Allora, prima di analizzare il motivo, bisogna responsabilizzare addirittura i docenti, secondo me, che dovrebbero imporre ai loro studenti di andare a vedere i concerti, perché la prima grande lezione di musica è quella di ascoltare musica e di vedere gli artisti dal vivo. Io farei anche una cosa nei conservatori: metterei i crediti per i concerti visti nei confronti dei ragazzi. Beh, come si fa all'università per quando vai alle conferenze, ai workshop. Secondo me questa cosa alimenterebbe un meccanismo molto interessante, naturalmente con dei prezzi da studente andrebbero fatti, però lo studente poi va a vedere il concerto e mi porta una bella relazione dove mi racconta anche come è vestito l'artista, gli sguardi che ha fatto ai suoi musicisti, come si è comportato anche nei confronti del pubblico, oltre a farmi una relazione non critica, perché no, non devi fare il giornalista, mi devi fare una relazione musicale di un concerto visto. Mi ci alleghi spillato il biglietto per dimostrare che effettivamente sia andato e speso quei 10, 15 euro, 20 euro, e io poi ti do dei crediti per la tua formazione di musicista. E questa cosa qui si imparano tantissime cose durante certo, un concerto. La musica, ma anche si impara solo così, stare sul palco a fare musica, si impara così, palco. Tu puoi studiare quello che vuoi, ma se allora che sai qual è la cosa, Francesco, è che non si stanno formando dei musicisti nei conservatori, ma si stanno formando in questo momento dei mediocri insegnanti di musica. Questo è quello che sta succedendo. Quindi riflettete, io mi assumo le mie responsabilità su questa cosa, ma sono convinto, perché io frequento i concerti alla mia età ancora oggi e li vado a vedere tutti, dei veterani e dei giovani talenti che si meravigliano: ma come è venuto, grazie, ma certo sono venuto perché sei bravo, vengo a vederti, no? E invece voi perché non venite a vedere i miei concerti o quelli dei miei colleghi? Non lo so, questo non te lo so. Non voglio dire. Parlare di me, perché capisco, sai, non sto parlando del pubblico, perché il pubblico fa delle scelte. Mi piace un artista e lo seguo fino alla morte. Mi piace un genere e seguo solo quello. Quindi il pubblico fa delle scelte, ma i musicisti non devono fare delle scelte. Devono I musicisti essere curiosi, devono essere curiosi, devono essere aperti. Non possono decidere di andare a vedere solo il concerto di musica classica, ma dovrebbero farsi un'idea della musica, perché la musica è un linguaggio universale che viene dal mondo classico, ma ci porta anche nell'era del digitale. Quindi è la curiosità. Spendete quei soldi invece che nelle pizzette per portare le vostre fidanzate a bere la birretta, andate a vedere i concerti e vi sentirete anche meglio. Soundcheck, il suono della musica. Che album, credo, lo posso dire, lo voglio gridare, questo è uno degli album più forti e più interessanti della nuova stagione, appena pubblicato dalla Warner Bros, perché l'etichetta è la Nonesuch, l'etichetta per la quale lavora e registra anche Brad Mehldau. Lui è Chris Thiele, un genio assoluto. Anzi, sai che cosa facciamo, Francesco, mio caro Riccardo? Adesso prepariamo la puntata per domani e la dedichiamo completamente a uno dei più affascinanti musicisti della nuova generazione, un mandolinista, suona il mandolino americano, Chris Thiele. Nuovo album appena pubblicato, si intitola Thanks for Listening, e noi ti ringraziamo per l'ascolto che ci hai fatto fare di questa meraviglia, brano splendido intitolato Elephant in the Room. E vi stiamo parlando anche di un genere molto particolare che sta a cavallo fra varie influenze. sì, folk, bluegrass, ma anche musica classica, perché comunque Chris Tillich ha una formazione classica vera e propria, ha rifatto anche le variazioni di Bach con il mandolino, cioè è un genio vero e proprio. Hai detto, scusami Bomarzi, vai a cercare in archivio il Bach Trios, ok? Valla a cercare nel frattempo. Ma tornando al discorso, anche perché siamo in chiusura, sul serio io credo che i musicisti debbano sostenere gli altri artisti, cioè è una cosa che si autoalimenta. Io vado a vedere i concerti perché devo prepararmi a questo tipo di formazione e al tempo stesso sostengo la mia categoria. Ma oltre a questo, tanti musicisti che magari appunto sono alle prime armi, andando ai concerti possono, dal punto di vista delle pubbliche relazioni, creare anche quelle che poi diventeranno delle collaborazioni. Conosci degli altri artisti, degli altri tuoi colleghi che magari poi diventeranno i tuoi compagni musica per la vita. Io non so che cosa succede, che cosa scatta, soprattutto in alcune città. Una cosa, non so, di snoberia, credono che sia una cosa provinciale andare a vedere i colleghi che suonano. Ma però, secondo me non è così. Però non è così, il livello, sì, non è così? Non che lo senso? So, sono pigri. Sai che cosa? Sì, allora, la cosa è questa, che io nei concerti, anche nei club, vedo tutti i musicisti della mia generazione che continuano a uscire, anche pieni di acciacchi. Continuano a uscire, a vedere, vanno a sentire i ragazzi, ma non vedo i ragazzi, non vedo dove state? Uscite, mi stava scappando una parolaccia alla Cruciani, a volte c'ha ragione Cruciani, la stavo dicendo, dove state? Uscite, andate a sentire musica. Allora, a parte il sabato che dovete stare a casa in macchina a sentire noi, sì, fino adesso. Adesso però sono le 9, quasi potete uscire e andare a vedere i concerti. Hai preso Bach Trios, eccoli qui. Allora, mi hai provocato, qui rifanno Bach, chi sono? Chris Tilly, Edgar Meyer e Yo-Yo Ma. Attenzione, buona serata, ci risentiamo domani con lo special di Chris Tilly alle 19:15 qui al Soundcheck di Radio 24. Grazie a Francesco Tromba, Riccardo Bomarzi, un abbraccio da GG Telesforo.